Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Alle soglie dell'estate, anche quest'anno con la Caritas segnaliamo alcune proposte per l'estate, in particolare esperienze di volontariato. Si chiama proprio così, esperienzedivolontariato.it, il sito ufficiale dove c'è una raccolta di proposte davvero interessante. C'è anche un questionario per capire appunto dove si può essere orientati, a quale tipo di proposta fra le tante. Ad esempio, la prima domanda che viene posta nel veloce questionario è: in quale periodo ti piacerebbe o vi piacerebbe fare l'esperienza? Viene chiesta poi l'età, se maggiorenni o minorenni, anche questo fa la differenza, e poi in quale parte d'Italia oppure all'estero si vorrebbe fare questa esperienza. Quante persone vorresti condividessero con te l'esperienza? Fino a 10, fino a 20 oppure con un massimo di fino a 50? Questo appunto si trova proprio in home page. Le proposte sono davvero molte, quelle delle esperienze di volontariato, un progetto che riguarda appunto in particolare il periodo estivo, tempo di vacanze dopo le fatiche scolastiche, di lunghe serate o anche nottate in compagnia degli amici, di leggerezza, di voglia di stare insieme e divertirsi. L'estate è anche un tempo privilegiato per mettersi in gioco, sporcarsi le mani, dedicare del tempo agli altri e a se stessi. Sono molti e molte i giovani e le giovani che in gruppo singolarmente si mettono alla ricerca di un'esperienza estiva per dare un valore aggiunto a questo periodo di vacanza, qualcosa che possa mettere insieme tutti gli ingredienti tipici dell'estate con la voglia di vivere qualcosa di diverso nello spirito della condivisione e nel servizio. Gli educatori così possono cercare l'esperienza giusta per i propri ragazzi, per concludere in bellezza un anno di incontri e attività e dare spunti preziosi una volta tornati poi alla quotidianità. Questo sito appunto nasce proprio come strumento per orientare gruppi e singoli nella ricerca della proposta adatta alle proprie esigenze e desideri. È una piccola raccolta che non esaurisce le proposte, ma ci sono diversi contatti, idee e indirizzi da cui poter partire per trovare l'occasione migliore appunto di mettersi in gioco. Il progetto appunto è nato già da qualche anno e anche quest'anno volentieri lo rilascio. Lanciamo. Sono 5 i motivi che vengono indicati per scegliere il volontariato. Metti in circolo il tuo amore, citando un famoso brano di Ligabue, il tema del comprendersi, incontrandosi anche con le fragilità proprie e altrui. E poi cambiare, perché rimanere immobile è certamente più facile, fare servizio invece richiede di muoversi e di agire. Poi l'arricchirsi, perché ci sono certamente esperienze divertenti, ma anche molto formative, anche molto forti. E poi, non ultimo, il restituire dignità, far capire all'altro che non è solo, che è importante per noi, non è dunque una cosa da poco. Attraverso l'aiuto concreto la persona in difficoltà si sente sollevata, supportata e preziosa agli occhi degli altri. Sono tante le proposte, diverse pagine, insomma io ne cito solamente alcune giusto per dare degli spunti. Ad esempio il servizio volontario nei servizi alla disabilità intellettiva di Padova, oppure la settimana solidale internazionale che quest'anno si tiene a Pescia in provincia di Potenza, o ancora l'estate con noi a Sarmeola di Rubano, quindi le porte di Padova, oppure all'estero fuori classe a Benevento, ma c'è anche l'edizione appunto che si svolgerà in Albania e anche altre appunto in provincia di Benevento in diverse località come Roccaba Scerana o Ponte. Ancora i campi estivi a San Nicolò Ravina di Trento, oppure un'altra settimana solidale a Santa Margherita vicino a Pescia, la condivisione nel campo Goila Roccella Ionica, Reggio Calabria, i cantieri dell'Arca in Kosovo piuttosto che in Grecia o in Libano, i cantieri di solidarietà in Palestina o in Georgia, E poi ancora l'iniziativa Abitare il Limite a Padova, le strade a mare, strade da amare a Scampia, quindi alle porte di Napoli, oppure un'altra esperienza simile invece a Palermo. Capite che i contesti sono, sono molto diversi tra loro, sia come tipo di proposta, appunto, quindi anche per questo viene chiesta l'età. Ci sono proposte più adatte per i minorenni, proposte più adatte invece per chi ha qualche anno in più. Ci sono anche le iniziative per animatori per bambini a Caorle, quindi in spiaggia, piuttosto che un tour sul bacino del fiume Molo in Kenya. Un'altra iniziativa che si svolge a Firenze. Alcuni luoghi sono, diciamo, forse più prevedibili per iniziative di volontariato, altri certamente lo sono meno. Li trovate tutti appunto per la prossima estate, con la possibilità di scegliere in base ai vari criteri sul sito www.esperienzedivolontariato.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.